due visite del parroco in un mese dissolsero la gioia in pianto. Una voce nera corse nel paese sino a fermarsi un metro in giù. Tra i fiori del campo santo. Si poteva nascere e morire mentre i viventi rimanevano per soffrire. Restava solo un nome in un registro, non servivano più.